Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli, dicendo: Il luogo è deserto ed ormai è tardi, congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: Voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dar loro da mangiare? Ma egli disse loro: Quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. Ordinò loro di farli sedere a gruppi. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli, perché li distribuissero a loro e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Oggi sono rimasta molto sorpresa leggendo questo Vangelo dal numero considerevole di persone che seguivano Gesù. Non avevo mai considerato, ma pensate che cosa vuol dire parlare a più di 5.000 persone, perché se erano 5.000 uomini, sicuramente c'erano altrettante donne e molti, molti ancora di più bambini. Quindi pensate, migliaia di persone, parlare Gesù a migliaia di persone senza microfono, senza microfono. Come si faceva a parlare così tanto? E parlava ore e ore, perché questi li seguivano per tanto tempo, tanto che Gesù deve dare loro da mangiare, perché si era fatto tardi tempo per il pranzo o per la cena. Ecco, quindi Gesù che cosa dice? Ha compassione di questa folla perché erano come pecore senza pastore. Cioè, tante volte la gente, la folla è confusa, la folla non sa chi seguire, non ha idee chiare e Gesù vuole cercare di condurre questa folla, di dare una direzione a questa folla e poi si preoccupa anche di dare loro da mangiare. E Gesù avrebbe potuto benissimo dare da mangiare senza chiedere ai discepoli quanti pani e quanti pesci avevano. Ma perché allora Gesù vuole servirsi di noi? Poteva benissimo dal nulla dare a tutta quella folla da mangiare, ma non vuole fare così. Ogni volta il Signore si vuole servire di noi, anche se offriamo dei mezzi che sono sproporzionati e ridicolarmente sproporzionati rispetto a quello che dovrebbero compiere. Cioè, come possono 5 pani e 2 pesci sfamare migliaia di persone? È impossibile. E ci sembra quasi impossibile quindi che il Signore chieda proprio a noi la collaborazione. E perché Gesù lo fa? Non perché ha bisogno del nostro aiuto, ma perché vuole farci dono del servirsi di noi. E perché questo? Perché vuole dare a noi la gioia. Non c'è gioia più grande che sentirsi utili. La cosa più triste nella vita è quando ci sentiamo inutili, quando vediamo che la nostra vita non serve a niente e a nessuno. Invece la gioia più grande è riuscire a fare della nostra vita un dono. Per quello il Signore ci dice: quanti pani avete, quanti pesci avete, non perché abbia bisogno di questo che noi gli doniamo, perché lui è il padrone di tutto l'universo, ma perché vuole mettere anche noi in condizioni di essere felici, perché si è felici solo quando si dà, e non solo quando si dà, ma quando si dà con gioia e quando si dà parte di noi stessi. Allora oggi cerchiamo di fare questo proposito, cerchiamo di vedere, ma io che cosa dono della mia vita? dono soltanto il superfluo, dono soltanto dei beni, dono soltanto qualcosa di materiale o dono anche me stesso. E che vuol dire donare me stesso? Donare il mio tempo. Oggi siamo molto avari del tempo. Impostiamo la nostra vita, tutto il nostro tempo, secondo le nostre priorità che molto spesso sono dettate dal nostro egoismo o quantomeno da interessi che hanno poco a che fare con il bene degli altri, ma molto spesso sono mascherati e hanno una parvenza di interesse per l'altro, ma molto spesso è soprattutto per mettere sempre al centro della vita noi stessi. Ma la gioia più grande è quando riusciamo a donare qualcosa di noi, quindi il tempo, i talenti, il nostro sorriso, la nostra dedizione, la nostra attenzione, la nostra considerazione, la stima che offriamo agli altri, una buona parola. Alle volte ci vorrebbe poco per rendere felice qualcuno che è intorno a noi, ma molto spesso il mio modo di relazionarmi, il mio modo di guardare l'altro è soprattutto incentrato su me stesso. Allora tante volte non salutiamo, non dedichiamo tempo, non dedichiamo attenzione o per timidezza o perché abbiamo fretta o perché pensiamo che altrimenti ci manca il tempo per noi. Allora cerchiamo oggi di fare proprio questo proposito, di dare qualcosa di noi stessi, soprattutto la nostra attenzione e il nostro tempo, particolarmente alle persone della nostra famiglia, i nostri figli, il nostro coniuge e i nostri figli. E per concludere vorrei leggervi questa frase di Gibran, quando scrive il profeta, a un certo punto dice: donerete ben poco se donerete i vostri beni. È quando fate dono di voi stessi che donate veramente. Buona giornata.